100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Ha preso il via ieri il nono BTP Italia, il titolo ancorato all'andamento del tasso di inflazione nazionale. L'emissione si dovrebbe concludere, salvo chiusure anticipate, mercoledì prossimo, mentre giovedì sarà la giornata riservata agli investitori istituzionali. La cedola minima reale fissata per i titoli con scadenza aprile 2024, quindi un'emissione che vale per 8 anni, sarà pari allo 0,4%, che non è poco se ad esempio la si confronta con gli standard garantiti ad esempio da un BTP quinquennale, che è dello 0,34% nominale ma non reale. È la mossa con cui il Tesoro italiano intende sfidare il tempo dei tassi zero. Dei quasi 104 miliardi finora collocati con le altre 8 emissioni, la prima tranche da 7,3 miliardi giunge in scadenza proprio in questi giorni. Del resto questo particolare titolo di Stato a lunghissima scadenza ha riscosso il favore dei risparmiatori, che finora ne hanno acquistato circa il 50%, pari a oltre 50 miliardi, e il plauso degli investitori istituzionali, che sono particolarmente attratti dalla protezione speciale che il Tesoro ha deciso per il pagamento degli interessi sulla falsariga dei buoni postali. La speranza del Tesoro è quindi che la domanda non dovrebbe mancare, proprio perché c'è questa scadenza imminente. È una sfida alla bassa inflazione e ancora di più al rischio deflazione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Parliamo di paradisi fiscali, parliamo del caso che va sotto il nome di Panama Papers, milioni di file che riguardano migliaia di persone, di società di tutto il mondo sotto osservazione per avere conti a Panama, con il conseguente sospetto di evasione fiscale e di riciclaggio. Nella lista dei nominativi intestatari di conti e di attività ci sono persone riconducibili a molti leader mondiali, da Cameron a Putin, da Poroshenko, oggi è emerso anche il nome dei Le Pen. Ci sarebbero inoltre ben 800 contribuenti italiani, cosa che sta spingendo la magistratura, la nostra magistratura, a muoversi. Un fascicolo con l'ipotesi di riciclaggio è stato aperto dalla Procura di Torino, che ha dato mandato alla Guardia di Finanza di acquisire gli elenchi dei soggetti interessati a questa vicenda. Gli elenchi sono in possesso di un consorzio di giornalisti investigativi ai quali per l'Italia aderisce il settimanale L'Espresso. Altre procure intanto sono pronte a muoversi, si parla di Milano, di Roma e di altre sedi. Insomma, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sentiremo molto parlare dei Panama Papers, che per il momento però appare decisamente più allarmante per le implicazioni geopolitiche che non per i fatti di illegalità fiscale in senso stretto. Avere un conto all'estero non basta per essere considerato un evasore, la cosa può essere assolutamente legittima se il conto è stato dichiarato al fisco italiano. Diverso però è sapere che molti leader mondiali custodiscono a Panama enormi ricchezze guadagnate chissà come. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.